Buongiorno e benvenuti a Radio Left, la trasmissione settimanale dedicata alla storia di copertina di Left Avvenimenti. Io sono Cecilia Tosi e questa settimana parleremo dello sciopero dei migranti a cui Left dedica la copertina, con un titolo esplicativo Tutti italiani. Il sottotitolo recita: Primo marzo, sciopero dei migranti, incontri, cortei, concerti e proteste non violente contro il razzismo e per i diritti. Ci sembrava necessario occuparci di questo evento molto importante che avrà luogo il 1 marzo, in risposta al clima di violenza e di intimidazione che molti immigrati hanno sentito sulla loro pelle in questi giorni. Proprio per questo abbiamo intervistato in primis una delle organizzatrici di questo sciopero, di questo grande evento, e quindi presidente del comitato 1 marzo, che si chiama Stefania Ragusa e che abbiamo in linea. Buongiorno Stefania. Buongiorno a voi. Potresti dirci subito quali sono appunto le motivazioni in modo un pochino più specifico di questo sciopero e come avete intenzione di organizzarvi? Dunque, le motivazioni in un certo senso le hai già dette tu, anche se in maniera molto sintetica. C'è un clima in Italia molto, molto duro per gli immigrati, c'è un clima di razzismo, di intolleranza, di esclusione, e forse c'è anche qualcosa di più del clima, ci sono delle leggi che avallano e rafforzano questo clima. Questa cosa non è francamente accettabile, non è degna di un paese civile, di un paese democratico, di un paese che crede in uno Stato fondato sul diritto. E dunque l'obiettivo è contrastare questo stato di cose, soprattutto stimolare una risposta culturale in primo luogo e poi anche politico, in modo che la gente incominci a riflettere un po' sull'importanza, sulla rilevanza dell'immigrazione e su tutta una serie di dinamiche che si intrecciano con l'immigrazione, che hanno a che fare con la vita di tutti, immigrati e non immigrati e non immigrati. E noi quando abbiamo lanciato questa idea a fine novembre, in realtà abbiamo ripreso un'iniziativa che arrivava dalla Francia e che era strutturata appunto come sotto forma di una giornata di proteste, di mobilitazione, giornata durante la quale gli immigrati avrebbero incrociato le braccia per poter rendere evidente che cosa significa per un paese complesso, organizzato come la Francia in quel caso o come anche l'Italia nel nostro, l'assenza immediata di tutto questo gruppo di cittadini e di persone che di fatto svolgono delle funzioni essenziali per il paese. Ma non ci fermiamo ovviamente alla questione di non è solo una questione di utilità degli immigrati. Gli immigrati sono utili, ma sono anche in primo luogo persone e quindi sono portatrici di diritti che vanno rispettati. C'è Donatella Coccoli, sì. La direttrice del settimanale, che voleva farti una domanda. Sì, volentieri. Infatti ho anticipato Cecilia, ma la domanda era proprio urgente. Stefania, la dicitura dello sciopero mi sembra che sia 1 marzo sciopero degli stranieri, intendendo per stranieri anche gli italiani che si sentono appunto estranei al clima di intimidazione e di razzismo. Quanti italiani e che tipo di risposta c'è stata dalla società civile italiana alla vostra iniziativa? Ma la risposta è sicuramente positiva, c'è una grande partecipazione anche di italiani oltre che di non italiani. E la società civile ha risposto molto bene e sta continuando a rispondere, perché devo dirti che anche se siamo arrivati alla vigilia del 1 marzo, in realtà è anche passato molto chiaro il messaggio secondo cui 1 marzo non è la fine dell'iniziativa, ma è l'inizio del movimento. Dunque c'è gente che sta chiamando anche ora. Io mi occupo del rapporto con i comitati, oggi ne ho raccolto le proposte di costituzione di 3 o 4 comitati nuovi. La voglia di partecipare e la fiducia anche per questa struttura nuova, un po' anomala, che però permette di mettere in rete tutte le forze che ci sono sul territorio italiano, sta riscuotendo molto successo. La risposta invece è stata meno positiva da parte della società, chiamiamola non civile, non nel senso di incivile, però nel senso di politica, da parte dei sindacati, da parte anche di alcuni partiti. Alcuni partiti no, ci stanno aiutando, ci stanno supportando in una maniera estremamente rispettosa, senza tentare di impossessarsi della manifestazione, ma condividendone gli obiettivi. I sindacati ci hanno avuto un atteggiamento un po' strano. Ecco, infatti a proposito di questo abbiamo le controargomentazioni della CGIL. Noi abbiamo anche ospitato l'intervista al responsabile immigrazione della CGIL, che sentiremo dopo, Piero Soldini. E la posizione della CGIL è un po' diversa dalla vostra, anzi potremmo dire molto diversa, perché loro sostengono che non vada appoggiato uno sciopero dei soli migranti, perché i migranti sono lavoratori al pari degli altri, quindi lo sciopero ha un senso se tutti lo fanno insieme per non aggravare anche le distinzioni etniche, diciamo, tra un lavoratore e un altro. Posso dire, ecco, certo, dire riguardo una cosa? Io davvero, scusami se poi magari userò un tono non troppo carino. Figurati. Io sono stufa di sentire questa castroneria, perché è dall'inizio che ci continuano a dire che non dobbiamo organizzare lo sciopero etnico, ma nessuno vuole organizzare lo sciopero etnico. E la cosa più carina è che ogni volta che questa cosa viene detta esplicitamente, ci si sente dire: ah, ma non l'avevamo capito, ora l'abbiamo capito. Passa un giorno e la situazione è sempre la stessa. Allora io mi chiedo: non l'hanno capito, non lo vogliono capire, vogliono fraintendere, ci urlano nel manico, che fanno? Forse lo possiamo chiedere direttamente al rappresentante, al responsabile, sì, della CGIL, Piero Soldini. È in linea? Sì. Buongiorno Piero Soldini. Buongiorno Piero. Senti Piero, ci puoi rispondere a quello che ci ha detto Stefania in questo momento a proposito di rivendicare uno sciopero che non è affatto etnico? Ma diciamo che questo equivoco sullo sciopero, ammesso che sia un equivoco, è stato ingenerato da chi ha parlato di sciopero, insomma. Quando si parla di sciopero la parola ha una sua, come dire, una sua accezione, e su quella poi si possono innescare eventualmente, prima ancora che polemiche, comunque punti di vista che possono essere anche diversi. La CGIL da subito ha interloquito in modo positivo con questa proposta, perché siamo impegnati da anni su questo terreno dell'antirazzismo, su questo terreno dei diritti degli immigrati. Siamo stati tra i promotori e gli animatori della manifestazione del 17 ottobre ultimo scorso a Roma, che è stata una manifestazione storica, quindi abbiamo interloquito positivamente, dicendo che l'ispirazione del primo marzo è un'ispirazione positiva, giusta, che condividiamo. E però abbiamo ragionato sul tema dello sciopero dicendo qual è la posizione della CGIL. Cioè, a tuo parere l'iniziativa poteva essere presa senza scomodare, tra virgolette, la parola sciopero, con altri tipi di iniziative? Sì, ma così come si sta facendo, perché il primo marzo sarà una grande giornata di mobilitazione, di presa di coscienza, di assunzione di responsabilità da parte di migliaia e migliaia di persone su questo tema. Io la definisco anche, diciamo, come elemento di novità questa cosa, anche come, diciamo, una militanza, diciamo, una nuova militanza antirazzista che nel corso degli anni, diciamo, era stata abbastanza in ombra. Cioè, noi avevamo subito anche un'aggressione militante, diciamo, dei razzisti e degli xenofobi, alla quale c'era stata invece magari un'indifferenza, insomma, un chiamarsi da parte. Il fatto che si riprenda questa assunzione di responsabilità soggettiva, ognuno per sé, prima ancora che all'interno delle grandi organizzazioni, sia un fatto molto positivo. Certo, te parli anche… E su questo, quindi… Parli anche perché appunto nella CGIL… Ci saranno centinaia di iniziative il primo di marzo, la CGIL sta praticamente in quasi tutte con un lavoro organizzativo, senza nessuna pretesa di egemonia né di tipo organizzativo né di tipo culturale, e abbiamo semplicemente chiarito che lo sciopero è un'altra cosa. Lo sciopero ha delle sue regole. Nel caso degli immigrati noi abbiamo ragionato da tempo, insomma, perché ci sono state anche delle esperienze, delle sperimentazioni. Nel 2002, quando è stata approvata la Bossi-Fini, ci sono stati momenti anche di astensione dal lavoro e di sciopero. È un ragionamento che stiamo facendo, e il nostro obiettivo è quello di ragionare perché l'arma dello sciopero possa essere usata in modo più efficace, in modo più giusto, in modo più corretto, per affrontare e risolvere eventualmente i problemi che hanno gli immigrati in questo nostro paese, insieme ai problemi che hanno fra l'altro gli italiani complessivamente nel mondo del lavoro. Da qualche parte, diciamo, l'equivoco è stato generato anche su questo, nel senso che si è più volte interrogato il sindacato per dire: ma voi che fate? Ci state? State dalla parte degli immigrati oppure? Ma la CGIL non è che è chiamata a fare il tifo per gli immigrati. Cioè, gli immigrati nella CGIL sono carne della sua carne, quindi certo, non è che noi dobbiamo tifare per loro, come magari da qualche parte può diciamo essere ingenerata anche da questo dibattito, cioè per cui no, io sto con gli immigrati, cioè non è la solidarietà agli immigrati che dà la CGIL. La CGIL, rispetto al tema dell'immigrazione, è impegnata ad assumere una responsabilità su tutta l'organizzazione per affrontare il tema dell'immigrazione e dei diritti dei migranti, sapendo che per questa via si difendono e si promuovono i diritti di tutti. Senta, questo che stiamo lavorando. Piero Soldini, buongiorno, sono Donatella Coccoli. E Stefania Ragusa è ancora in linea, vero? Io sono, sì, perfetto. Sì, allora, io vi volevo chiedere a tutti e due, e adesso appunto lascio la parola a Stefania Ragusa, al di là dell'equivoco, se c'è stato equivoco, e visto che la CGIL sta per lanciare la primavera antirazzista, non potreste, potremo mettere in campo tutte le forze comuni per fare veramente una battaglia culturale? Stefania? Allora, assolutamente sì. Io rispondo un secondo a Piero, dico: allora sono contenta che non si parli più di sciopero etnico, nel senso che spero che sia chiarito una volta per tutto che da parte nostra non c'era e non c'è mai stata l'intenzione di parlare di sciopero etnico. Anche per una ragione semplice. Se si dice sciopero degli immigrati, significa sciopero degli immigrati. No, fermo. No, Piero, scusami. Ed è di questo che si è parlato per settimane sui giornali. No, Piero, scusami, che questa cosa è stata chiarita sin dall'inizio. Noi abbiamo detto non sciopero degli immigrati, ma sciopero degli stranieri, chiarendo che, e questo è proprio nel titolo del nostro movimento, quindi è impossibile non cogliere questo aspetto, e straniero si intende colui che si sente estraneo al clima di razzismo che sta avvenendo. Questa è una sottigliezza, diciamo, letteraria. No, non è una sottigliezza letteraria. Scusami, Piero, fammi parlare. Piero, scusami. Sì, facciamo parlare Stefania un attimo, poi magari Piero ribatte. Non è una sottigliezza letteraria, è stata una cosa molto, quindi è molto importante e caratterizzante del movimento, perché questo movimento, fra l'altro, è un movimento che non nasce come movimento di italiani o di stranieri, un movimento che nasce meticcio e con la voglia di essere meticcio e rivendicando il carattere meticcio, dicendo: siamo mescolati, non siamo solidali con gli stranieri, non siamo gli stranieri arrabbiati, siamo insieme, persone che vivono insieme perché si sono mescolate, e stiamo lanciando una battaglia sui diritti. Tra i nostri comitati tanta gente ha chiesto di scioperare. A questo punto il discorso diventava: le organizzazioni sindacali ci vogliono appoggiare oppure no? È anche legittimo che il sindacato dica no, perché non riteniamo opportuno il momento. Lo sciopero lo decidono i lavoratori e le organizzazioni che li rappresentano. Benissimo, però i nostri comitati non è che sono formati da non lavoratori, sono lavoratori anche loro. No, è un'altra cosa. È un'altra cosa. Perché? Cioè, in Italia lo sciopero è indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni che li rappresentano. Questa è la storia del sindacato. E infatti, le norme. Dopodiché qualcuno si alza e dice: domani è sciopero, il sindacato ci appoggia o non ci appoggia? Cioè, questa è una cosa, cioè una cosa che non perché, sta nel cielo. Il diritto di sciopero è un diritto costituzionale. È un diritto costituzionale della persona. E si esercita nel modo che ti ho detto io. Benissimo, io posso chiedere al mio sindacato se mi appoggia, e il mio sindacato mi può dire sì o no. E infatti in alcuni casi i sindacati stanno dando l'appoggio. C'è da dire, infatti, assolutamente. Se voi aveste chiesto dall'inizio al sindacato un confronto su questo, forse sarebbe andato diversamente. Cioè, nel senso che se voi lanciate lo sciopero e poi dite al sindacato di aderire allo sciopero che lanciate voi, è chiaro che questa è una cosa, penso che tu capisci come me, che è una cosa che non può funzionare, no? Guarda, non lo so, io penso che la proposta che arrivi dal basso può essere comunque presa in considerazione o valutata. Ma un'altra cosa importante, secondo me, è non incancrenirsi sulla questione sciopero, perché noi abbiamo detto sin dall'inizio: lo sciopero inteso come astensione dal lavoro è uno strumento, è uno dei tanti, ce ne sono tanti altri, perché l'obiettivo nostro non è fermare l'Italia, l'obiettivo nostro è sensibilizzare, lanciare un segnale culturale, fare tutto quello che è possibile per questo, mettendo in rete le realtà che già ci sono, perché non arriviamo noi che scopriamo l'America, semplicemente abbiamo trovato una formula per valorizzare le realtà esistenti. La cosa bella è poter mettere in rete tutto questo gran movimento che c'è nel nostro paese. E qui arrivo alla domanda che mi facevate prima: è possibile mettere insieme le cose? Non solo è possibile, è doveroso mettere insieme le cose, perché se si combatte per gli stessi obiettivi, ovviamente si devono unire le forze, e infatti le forze sono unite, nel senso che, voglio dire, molto probabilmente, io non so dove sarò il 20 marzo, ma 90 volte su, non, cioè 90 probabilità su 100 che sarò a Roma, e con me anche le altre persone che aderiscono al 1 marzo. E non solo, come dire, ci sarà un'adesione, un sostegno verso la primavera antirazzista, ma verso anche altre iniziative. C'è ora il No Razzismo Day il 6 marzo a Milano, una manifestazione creata dal, fondata dal, non, dal No Lega Day, dal movimento No Lega Day. Noi aderiamo, ci sono tante iniziative che andranno anche oltre marzo, aprile e via discorrendo, ed è logico unirsi e lavorare insieme. Infatti diciamo anche che questa è un po' una novità, è la prima volta che viene organizzato qualcosa del genere, quindi è anche ovvio che ci siano ancora dei meccanismi da oliare e anche una collaborazione da organizzare, quindi probabilmente anche i sindacati e gli organizzatori di questo sciopero continueranno un dialogo che poi porterà anche degli accordi per il futuro, insomma. Ma speriamo anche sulla chiave europea. Perché certo. Noi abbiamo tutta una serie di contatti, abbiamo avviato contatti con la Francia, la Spagna, la Grecia, speriamo che si riesca ad allargare ancora di più, perché se questo diventasse un grande appuntamento europeo, tutti avrebbero da trarne vantaggi. Certo, anche perché è già nata con un respiro europeo questa iniziativa, partita dalla Francia e poi ha raggiunto molti paesi che attualmente fanno parte dell'Unione Europea, quindi è abbastanza evidente che è una problematica che coinvolge tutti e che probabilmente continuerà a essere trattata da tutti. Stefania, noi ti salutiamo perché sappiamo di averti già rubato abbastanza tempo. Io vi ringrazio, vi saluto, ciao Piero se ci sei ancora. Ciao Stefania, a tutti, a presto, grazie. Grazie. Ciao. Piero, speriamo tra l'altro che questa chiacchierata con Stefania, nonostante le vostre divergenze, serva da punto di partenza per una, appunto, organizzazione di questa primavera insieme. Sì, appunto, diciamo che noi stiamo lavorando con questo spirito che diceva Stefania, da tempo, ripeto, abbiamo lavorato così per la preparazione della manifestazione del 17 ottobre e anche in quell'occasione, diciamo, la caratteristica più importante di quell'evento è stato il fatto che ci siano state 400 organizzazioni piccole, medie e grandi che si sono, diciamo, autogovernate, autogestite e hanno insieme costruito un evento storico, perché quella è una manifestazione a 20 anni dalla prima manifestazione antirazzista che si fece nell'89 con la morte di Gerry Maslow, è stata una grande manifestazione storica. Abbiamo lavorato con questo spirito unitario nel rispetto anche delle diversità e delle caratteristiche, delle peculiarità di ogni singola organizzazione nel promuovere una nostra campagna culturale che è stata Stesso Sangue e Stessi Diritti, e ha portato poi ad una campagna che abbiamo organizzato unitariamente con altre 27 grandi organizzazioni, dall'ARCI alla Caritas, passando per tutti i sindacati, una campagna che si chiama Non Aver Paura, che è ancora in corso e che avrà un suo momento, diciamo, anche di lavoro e di intervento in questa primavera antirazzista, perché si sta concordando con la campagna Non Aver Paura una serie di iniziative con il mondo dello sport, con la Maratona di Roma, con gli stadi, i grandi stadi di Serie A del calcio. Quindi lo spirito col quale stiamo lavorando come CCL è esattamente quello, cioè di fare la nostra parte, di metterla in comune, perché abbiamo da tempo, diciamo, messo all'attenzione anche del nostro dibattito interno il fatto che il razzismo in questo nostro paese è un'emergenza e che la questione immigrazione è una grande questione nazionale e in quanto tale deve interessare l'insieme della nostra organizzazione. Certo, quindi anche da questo punto di vista la CGL non può che essere in prima linea, ovviamente. Sì, poi che noi sappiamo per primi che ci sono contraddizioni nel mondo del lavoro, nella società italiana, diciamo nell'opinione pubblica in senso lato, e la CGL è un'organizzazione di 5.700.000 iscritti, diciamo, quindi anche al nostro interno abbiamo problemi di questo tipo ed è per questo che vogliamo affrontarli, diciamo, in un confronto diretto, anche in quelle fabbriche, in quei posti di lavoro dove magari ci sono lavoratori che sono convinti che gli immigrati non servono e che vanno rimandati a casa loro. E queste contraddizioni si affrontano appunto con un confronto aperto, franco, perché è questo, diciamo, sono queste le caratteristiche di una grande organizzazione democratica. Quindi la primavera antirazzista noi l'abbiamo in qualche modo avanzata proprio per dire: noi ci siamo il primo, ci siamo il 20, ci siamo il 21 e vogliamo dare a questo nostro impegno, diciamo, un'idea di percorso, un'idea di intreccio fra realtà nazionali, realtà territoriali, singole città. Le iniziative che ormai sono anche obbligatorie in qualche modo, perché certo, se avete ovviamente anche come sindacato un 10% degli iscritti che sono certo immigrati, problematiche importanti perché questo settore di lavoratori a parità di condizione e qualifica guadagnano, come dici tu stesso, meno degli italiani, come CGIL non potete che difendere i diritti ovviamente di questo settore discriminato e spesso svantaggiato. Piero, ti ringraziamo molto per essere intervenuto anche a te, speriamo di sentirti presto. Buongiorno. Grazie allora. Arrivederci. Nel servizio che Left ha dedicato allo sciopero per i migranti c'è un po' una rassegna di quali sono le iniziative che vengono svolte in tutta Italia e ci sono anche le voci di molti di questi immigrati, alcuni dei quali si chiedono anche un po' se sarà difficile chiamare le varie comunità di migranti allo sciopero, visto appunto che nessun sindacato lo ha indetto formalmente, anche se è vero che ci sono alcune situazioni, alcune realtà territoriali dove ad esempio i COBAS coprono lo sciopero, lo sostengono, ad esempio a Pisa, se la CGIL nel pomeriggio ha organizzato una fiaccolata a cui parteciperanno molti migranti, i COBAS la mattina faranno due presidi di fronte al municipio, di fronte alla prefettura, quindi le iniziative sono molte, ancora il coordinamento è un po' difficile, ma appunto da qui prenderà il via probabilmente anche uno sforzo organizzativo notevole. Da un altro punto di vista abbiamo anche intervistato un sociologo, a cui Donatella voleva fare qualche domanda. Sì, Cecilia, grazie, perché abbiamo scoperto, scrivendo questi articoli sullo sciopero del primo marzo, che la questione, chiaramente, come già è stato detto anche da Stefania Ragusa e come ha accennato anche Piero Soldini, la questione è culturale. Quindi ci interessa proprio capire, questo grazie anche alla presenza qui collegato Alfredo Alietti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ci interessa capire qual è la situazione adesso nelle grandi città. Lei ha scritto di recente, ricordo, il volume Società urbana e convivenza interetnica. Quindi sì, la prima domanda che appunto le vorrei porre è, secondo lei, nel 2010, inizio 2010, che cosa sta succedendo nelle città, anche alla luce di quello che è accaduto a Milano, a Via Padova, quali sono, diciamo, le percezioni che lei ha rispetto al futuro? Sì, indubbiamente il discorso meriterebbe un ampio spazio, però per fare una sintesi delle tante questioni che adesso, sentendo anche gli interlocutori precedenti, hanno messo in campo, indubbiamente possiamo partire dal presupposto che dovrebbe essere la base per tutti i ragionamenti, che è questo: noi, le nostre società urbane, le nostre città ormai sono sempre più multiculturali, cioè volente o nolente, piaccia o non piaccia, le nostre città sono densamente abitate, sono vissute ormai da popolazioni miste, da immigrati che entrano nelle nostre città, vivono, si insediano, mandano i figli a scuola, interagiscono quotidianamente, vanno a lavorare. Questa cornice multiculturale ovviamente è ormai un dato di fatto ed è opportuno non tanto domandarsi come immaginare il futuro, quanto oggi come agire per creare le migliori condizioni per una convivenza che sia il più possibile pacifica e non conflittuale. Mi viene in mente nei ragionamenti dei politici, nei ragionamenti degli opinionisti sulla stampa, che si parla spesso di coesione sociale, no? Cioè il fatto che una società deve comunque mantenere un indirizzo nelle politiche sociali, nella quotidianità, un'idea di coesione sociale. Però qui spesso l'errore si fa che si immagina sempre la coesione sociale senza tener conto degli immigrati, che ormai fanno parte della nostra, del nostro orizzonte quotidiano, come dicevo prima, e della nostra vita. Dunque, nel momento in cui ragiono sulla società, devo sempre ormai ragionare in termini multietnici, multiculturali, e in questo senso allora cambia anche la visione della coesione sociale, cambia anche tutta una serie di strategie politiche che devo avanzare per migliorare le condizioni, perché se miglioro le condizioni degli stranieri, ha un modo anche di migliorare le condizioni degli italiani. Certo. E Via Padova è un esempio in questo senso eclatante. Via Padova non è che si è scoperta 10 giorni fa con la tragedia dell'uccisione del giovane, è da 15 anni che è lasciata in condizioni come dire, di degrado, indipendentemente dalla presenza degli immigrati che lì hanno trovato appartamenti un po' fatiscenti, abbandonati dagli italiani a prezzi abbordabili e ovviamente come logica di mercato ci sono insediati lì. Ma da anni che Via Padova è stata abbandonata, non ci sono state politiche urbanistiche efficaci che potevano modificare il quadro, no, ambientale anche della convivenza che si sta sviluppando in questi giorni, in questi mesi. Senta, quindi è assodato che la responsabilità degli amministratori e quindi dei politici è evidentissima, perché se lei dice che è da 15 anni che la situazione è quella, quindi una politica corretta anche a livello di servizi sociali, asili nido, case, eccetera, sarebbe fondamentale. Però ecco, la cosa che mi ha colpito nella sua intervista è che lei sostiene, quando parla di paradosso dell'inconseguenza, che praticamente noi italiani, gli italiani sono abituati nella realtà a vivere con gli stranieri. È come se dovesse esserci uno scatto in più, no? Cioè è come se a livello di pensiero poi non lo sono abituati. Quindi che cosa occorrerebbe? Cioè tempo, politiche, cultura, informazione? Certo, no, questa sottolineatura della mia intervista del paradosso di inconseguenza, per spiegare ai radioascoltatori, significa che io vivo in un quartiere multietnico, ho ogni giorno decine di interazioni con lo straniero, il mio vicino di casa, il panettiere egiziano, il macellaio maghrebino, eccetera, eccetera, che in qualche modo percepisco come persone positive, che non sono una minaccia, non sono, certo, un pericolo per la mia vita, per la mia identità. Ma dall'altro canto, nel momento in cui esco da questa quotidianità dei rapporti a livello di quartiere, a livello di, dove viviamo, non, l'immagine generale, la mia percezione generale del fenomeno migratorio spesso è negativa, rimane ancorata a un'immagine stereotipata appunto di minaccia, di rischio, di paura, eccetera, eccetera. Qui è importante perché interviene un po' anche il sistema dei mass media, la presenza in Italia di un partito che crea un consenso forte sulla base di queste paure degli immigrati. Le stesse politiche securitarie che a Milano sono state un laboratorio molto importante, in qualche modo aumentano costantemente la percezione negativa dell'immigrato. Allora ci troviamo di fronte, in Via Padova, anche qui è un esempio eclatante, che un abitante italiano in Via Padova si trova un po' in una, quella che i psicologi chiamano dissonanza cognitiva, cioè da un lato ha esperienze positive, no? Riesce a fare la spesa spendendo poco e comunque trova gentilezza, trova accoglienza, certo, no? Nei suoi vicini immigrati, stranieri. Un esempio, scusi, giusto per fare anche un accenno, anche alla scuola, le scuole sono un vettore di integrazione in Via Padova straordinario, le mamme si incontrano, certo, di tutte le nazionalità. Ma dall'altro, una volta uscito da questo circuito quotidiano, l'idea è in qualche modo sorretta da queste rappresentazioni pubbliche e politiche che in qualche modo sono costantemente, la maggior parte di esse, negative. Quindi mi sembra di capire che la classe politica è molto più indietro della società. Assolutamente, assolutamente, ma la società... Ma la società multiculturale è molto più avanti di quello che si immagina la classe politica, assolutamente, soprattutto di una parte della classe politica, siamo molto più avanti, su questo non c'è alcun dubbio. Ma mi scusi, sì, giusto, sì, un accenno, perché non gli ho proprio risposto esattamente. Ecco, cosa fare? Perché è importante, forse, esatto, anche oltre a fare tutti questi ragionamenti, discorsi, anche immaginarsi delle politiche, certo, pratiche. Allora, io direi che sono due le questioni. Mi sembra che in parte siano state dette anche prima del mio intervento, e anche lei lo ha ricordato, cioè incentivare le politiche sociali a livello territoriale. E incentivare le politiche sociali a livello territoriale significa coinvolgere costantemente in un quadro, no, di indirizzo generale le associazioni, la molteplicità delle associazioni che sono a livello di quartiere. Via Padova, ad esempio, ha un'enorme presenza di parrocchie, di scuole, di associazioni di immigrati, di associazioni di mutuo aiuto. Ecco, queste associazioni sono state per troppo tempo escluse dalle politiche. Sarebbe opportuno avere una condivisione di possibili soluzioni, perché le associazioni vivono lì, riconoscono i problemi e sanno come intervenire. Dall'altro, gli amministratori possono sostenerle attraverso risorse finanziarie, eccetera, eccetera. L'altro intervento che si potrebbe ipotizzare in situazioni come la Padova riguarda la sicurezza, perché non dobbiamo nasconderci, ci sono anche problemi di sicurezza in questi quartieri. Allora, cosa è stato fino ad oggi? Fino ad oggi si è perseguito un modello che non ha assolutamente dato nessun tipo di effetto, una politica securitaria che in qualche modo è più esemplare, un po' spettacolarizzata, no? Non so, ad esempio in via Padova ci sono tantissime camionette di carabinieri e di esercito, ma non è mutata per nulla la dimensione della sicurezza. Allora anche lì, perché non provare un nuovo modello? Che parte proprio da una condivisione tra le forze di polizia, che devono reprimere ovviamente gli episodi di devianza, di criminalità, e ancora una volta però in condivisione con le persone che abitano, con le associazioni, con le scuole, per cercare di coniugare le politiche di sicurezza con le politiche sociali. Allora lì sì che si può immaginare un futuro diverso, assolutamente. Benissimo, io la ringrazio e speriamo che questa manifestazione anche del primo marzo serva a far riflettere tutti gli italiani e stranieri insieme. Grazie mille. Arrivederci. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Dunque, speriamo che tutti partecipiate a questa iniziativa dello sciopero del primo marzo. Come ci ha detto Stefania Ragusa, non sono soltanto gli immigrati ad essere chiamati a manifestare, ma anche tutti coloro che si sentono stranieri in questo clima di intolleranza, quindi speriamo tutti che le adesioni siano alte. Left Avvenimenti vi augura un buon primo marzo e arrivederci alla prossima settimana. Arrivederci.